È una situazione paradossale, non saprei come spiegarmela. La verità è che quando tu fai una concertazione con il territorio per fare un'opera pubblica, i costi aumentano in maniera sproporzionata. Questo è stato fatto sia per la TAV che per le grandi infrastrutture autostradali, la Brebemi e quant'altro. Ma una volta che hai messo d'accordo praticamente il 90% dei soggetti, ci sarà sempre un 10% che non è d'accordo, ma la reazione non può essere che questo 10% impedisce a tutti gli altri di poter avere un'opera, perché questa diventa la dittatura di una minoranza. E quindi qui si è creata, a causa anche di qualche personaggio dello spettacolo che ha pensato di enfatizzare certe situazioni, che queste A chi opere si devono... riferisce? Ma io continuo a ritenere che Grillo sia un personaggio dello spettacolo. Ah, ok. E quindi secondo me è molto pericoloso questo fenomeno, perché poi si porta anche a persone che sicuramente saranno in buona fede. Io non voglio pensare che siano in cattiva fede, perché quando uno poi rischia anche la propria incolumità fisica, immagino che sia in buona fede, insomma, però è assolutamente fuori luogo. Senza quest'opera l'Italia è fuori dall'Europa, non ci sarà la possibilità di collegare grandi direttrici per le merci e per i passeggeri, e non è un caso che sia le amministrazioni di centrodestra e quelle di centrosinistra la pensano alla stessa maniera. Quindi io Sì, e non è un francamente... caso che i francesi e i tedeschi siano già pronti a farci il corridoio alternativo.